Lorenzo. Enrica, piacere. Ciao. Ciao. Ciao Camilla. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ah, ma vi conosco quasi tutti. Stiamo facendo un laboratorio dove intervistiamo delle persone e gli chiediamo, facendo domande sulla loro attività. Allora, io mi chiamo Enrica Caneppele e ho aperto questo negozio ormai 22 anni fa. E era nato come un negozio Benetton e è rimasto tale fino a un paio d'anni fa. Poi abbiamo cambiato referenze, e complice tanti fattori, principalmente la pandemia, e ho ristretto il mio negozio che era più grande e ho cambiato marchi, perché per rimanere un negozio Benetton ci volevano uno spazio molto più grande. Avevo donna e bambino. Adesso invece abbiamo donna e uomo. E sono partita tanti anni fa con questo negozio. Prima lavoravo a Folgore Vacanze, che è una realtà che si è fusa con l'APT, è rimasta solo l'APT. Prima c'era Folgore Vacanze, che era il consorzio albergatori, e l'APT invece era l'organizzazione provinciale del turismo. Poi, quando l'APT è stata privatizzata, le hanno fuse, ma io prima di allora, un annetto prima, avevo realizzato questo mio desiderio di aprire un negozio. Si vive di sogni? Si vive di sogni, ragazzi. Bisogna impegnarsi tanto per realizzarli e principalmente dovete proprio studiare. Studiare, perché per realizzare un sogno bisogna fare tante cose, bisogna essere preparati, bisogna approfondire e sicuramente lo studio, poi qualsiasi sia il vostro sogno, troverete uno studio appropriato. Il mio sogno era completamente diverso. Io volevo fare l'ingegnere, però poi per tutta una serie di motivi ho abbandonato gli studi, è il motivo per cui vi dico invece studiate e portate a termine il vostro percorso di studi. E io ho abbandonato gli studi perché sono andata a vivere da sola e quindi poi ho cominciato a lavorare. E lavorando non riuscivo a studiare, non riuscivo a fare tutte e due le cose e quindi poi sono rimasta nel mondo del lavoro. Però non era proprio il mio... Volevo fare qualcosa per me, insomma, comunque non rimanere a fare il dipendente. Nella sua vita c'è stato qualcuno che le ha impedito di fare questo lavoro? C'è qualche ostacolo? Questo del negozio? Sì. O anche un suo sogno? No. A dire la verità no, ho sempre trovato appoggio anche da persone sconosciute e l'importante è essere sempre onesti, sia intellettualmente che poi nelle cose pratiche. Io ho avuto veramente una gran fortuna probabilmente nella mia vita e quando ho iniziato per esempio il mio percorso con il gruppo Benetton, io ho fatto tantissimi anni, sono stata con loro per 20 anni non avendo nemmeno un contratto, perché quella volta, siccome era un esperimento a Folgoria, non c'era un negozio del genere, e ci siamo dati una stretta di mano perché era il contratto più comodo da fare e più veloce da disfare se non fossero andate bene le cose. Però mi hanno veramente tanto aiutato, pur non conoscendomi, insomma. Avendo fiducia, bisogna tanto impegnarsi sicuramente. Che messaggio vuole dare ai ragazzi? Allora, il mio messaggio è sicuramente che bisogna avere fiducia in se stessi e avere sempre e comunque autostima. Se voi vi ponete un obiettivo, dovete impegnarvi per raggiungerlo, però sicuramente, specialmente in una realtà così piccola, perché vivere in questi paesi così piccolini non è semplice. Perché non c'è niente e poi ci sono delle cose che invece non hanno prezzo, che può essere proprio un forte senso di comunità ed essere, ricevere aiuti, anche solo consigli da persone che alla fine fanno parte del paese, anche se non si conoscono magari bene o personalmente, poi quando c'è il momento del bisogno, insomma, sono tutti uniti. Quindi sicuramente dovete, adesso voi siete in seconda media, dovete già cominciare a pensare a cosa vorrete fare da grandi, che poi sicuramente cambierete idea, da qua a quando sarete grandi. Però insomma dovete cominciare a porvi delle domande, a vedere anche quali sono le vostre attitudini, pensare a cosa vi riesce bene, se di riuscire magari a sviluppare queste vostre attitudini. Poi tante volte si fanno le cose che fanno i genitori, cioè si portano avanti le aziende di famiglia piuttosto che... Ma non dovete sentirvi legati a questo, dovete cercare di fare quello che vi sentite, perché alla fine nella vita l'unica cosa importante è stare bene. E quando si lavora, specialmente in questi posti così turistici, dove si lavora sempre, quando tutti sono in vacanza è il momento in cui si lavora di più. Se lo fai con passione e perché ti piace, non ti pesa, sennò diventa un peso enorme. Scusi, ha mai trovato delle difficoltà nel suo lavoro? Ah sì, certo. Certo. Essendo donna. Essendo donna? No, non mi sento questo di dirvi sinceramente. Un po' perché il mondo è cambiato, per fortuna, era già cambiato allora. E ho avuto dei vantaggi io, essendo donna, nel senso che quando ho aperto, prima ci pensavo ma proprio non me lo ricordo, e ho ricevuto un contributo da parte della provincia, perché quando ho aperto questo negozio avevo meno di 30 anni ed ero femmina, e quindi la provincia mi ha dato un contributo, io credo del 10%, per fare i lavori. Naturalmente ho dovuto fare tutti i lavori e pagarli, e con tutte le fatture quietanzate, che vuol dire che la provincia aveva la prova certa che ho pagato tutti, in base ai soldi che avevo speso c'era un tetto massimo, insomma al massimo di quel tetto lì credo di aver ricevuto un contributo del 10%, quindi alla fine sono stata favorita dal fatto di essere femmina. E voi cosa avete in mente di fare dopo le medie? Estetica. Ah sì? E tu? A me piacerebbe fare il linguistico. L'ENAIP. Perché? Cosa vuoi diventare? Io? Elettricista? No, non è quello. Idraulico o elettricista? Sì, elettricista. Elettricista. Lavori manuali sono comodi. Beh, ma sai cosa penso io, per esempio? Queste scuole professionali che voi volete fare, dovete farle veramente con tantissimo impegno. Perché tante volte si pensa... ma è più facile, è più semplice, invece non è vero, e se voi vi impegnate avete in mano dei lavori veramente molto molto remunerativi, eh? Riflettere, vedere, capire a che punto sei arrivato, cosa, dove puoi ancora arrivare, quanto devi ancora investire, qual è il sacrificio richiesto, e valutare se ne vale la pena. Io sono geometra, sì, ho fatto la scuola per geometri e poi mi sono iscritta a ingegneria, ma non ho finito, e è forse l'unico rammarico che ho. Per il resto ho sempre fatto quello che ho voluto, anche in questo caso, ma forse se avessi finito gli studi adesso avrei una vita diversa, ma non posso più saperlo. Magari sarei un ingegnere con un negozio. Allora, questo mio progetto di positivo, cioè che sono riuscita a realizzare il mio scopo, che era quello di tornare a vivere qui e rimanere qui stabilmente con la mia famiglia. Sicuramente ci sono è una soddisfazione personale, insomma, quando si riesce a realizzare un qualcosa per sé e si riesce a portare avanti, è sicuramente una cosa di grande soddisfazione. Poi i lati negativi ci sono come dappertutto. Essere sempre qua in un piccolo paese, quello, ci sono dei momenti che stanca, però poi per contro, quando hai bisogno di qualcosa, insomma, sono sempre tutti pronti a dar una mano. Come vede il futuro? Allora, il futuro, adesso questo è un momento di incertezza, soprattutto per il commercio, e non tutto. Questa pandemia sicuramente, insieme alla guerra, ha modificato un po' quello che era la routine, perché comunque le famiglie sono più propense a riflettere prima di spendere i propri soldi, ma proprio per una questione di incertezza. Adesso sembra che tutto migliorerà, bisogna comunque sempre essere fiduciosi, perché la storia alla fine è ciclica. Ci sono dei momenti bui, dei momenti più spensierati. Adesso questo non è sicuramente un momento felice, ma se vuoi che ti risponda per l'abbigliamento, pensa che sono quasi 3 anni che c'è gente a casa in smart working che si mette la camicia e sotto ha le braghe del pigiama e sta seduto così in videochiamata. Quindi per quanto riguarda l'abbigliamento non è un grandissimo momento, sono sincera. Ci sono altri settori che invece hanno molta più soddisfazione. Per esempio prima parlava, mi chiedeva di se aiuto mio marito, ogni tanto aiuto mio marito, perché invece per quanto riguarda la socialità adesso la gente è molto più portata a spendere i soldi per stare insieme, stare fuori, stare a mangiare, bere, che non, e anche perché con la pandemia ci siamo resi conto tutti di avere gli armadi strapieni di vestiti, perché la prima cosa che hanno fatto tutti è stato mettere ordine negli armadi. Però io sono fiduciosa, ma sono fiduciosa di natura. Adesso speriamo solo che piantino lì sta guerra e poi vedrai che pian pianino si risistema tutto.